Canale 5 segue con una telecamera il giudice Raimondo Mesiano, il magistrato che ha condannato la Fininvest a pagare 750 milioni alla CIR per il lodo Mondadori. In una girandola di rivelazioni da 007 del Giambellino, si scopre che il magistrato prima va dal barbiere e poi fuma diverse sigarette seduto su una panchina. Si scopre anche, caspita, che il giudice ha calzini turchesi su mocassini bianchi. Domanda, ma cagata per cagata, forse non era meglio seguire Ronaldinho in discoteca?